Prologo. Giovanni, se ci sei, batti un colpo. A te, Deus, Sots and Soda. Friday. Eccomi qui, ci sono. Questo è il volo pindarico numero 5. E voi ci siete? Are you there? Luke Slater. Thank you. Ci sono due modi per trascendere la vita e spezzare le sue catene: creare oppure distruggere. Cosa avrei scelto io se 28 anni fa fossi stato un adolescente della provincia americana, soffocato dalla noia, schiacciato dal formalismo e col futuro già segnato? La protagonista del prossimo pezzo non trova altro sbocco che l'annientamento e si immola al dio Efesto. Never anything to do in this town. Sit around at home, stare at the walls, stare at each other, wait till we die. But now I've got kerosene, set me on fire. A voi uno dei capolavori supremi degli anni Ottanta, il sacro fuoco purificatore che grida la vita. Ecco a voi Big Black e questa è Kerosene. Do it. distanza fra dolore e piacere viene abbattuta. Tormento ed estasi si fondono in un nuovo e indefinibile sentimento, che non è più né l'uno né l'altro, ma al contempo entrambi. La congiunzione carnale è realizzazione suprema, ma anche incatenamento morboso. Lei è ora padrona, ora schiava. Lei è ora Venere, ora Medusa. Ecco a voi la ninfomane per eccellenza del rock, Miss Polly Jean Harvey. In sequenza, Rid of Me, Mist, l'inno alle mestruazioni Happy and Bleeding, ma subito la sua ode al sesso maschile, Long Snake Moon, e che Alessia mi perdoni. I'm just Thank you. semplicemente l'oblio. È un po' come bere il lete. Per favore, tenete gli occhi chiusi e precipiterete a velocità vertiginose giù per i pendii del cosmo. A voi Brian Eno, questa è The Big Ship. È arrivato il momento di volare a bordo di una scopa. Make-up dark, sontuose vesti scintillanti, incantesimi architettati alle tastiere, la gravità sconfitta a colpi di bacchetta magica. Ecco a voi le streghette del technopop, le Ladytron. A voi Melting Ice e Ambulances. We'll be right back. Tutto è opinione, diceva Marco Aurelio, ma anche questo a sua volta è confutabile. Il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? Dio non gioca a dadi. Se siete fra coloro che pensano la matematica non è un'opinione, allora questo è per voi. Numbers don't lie. I Mynumbers. Dolce Stil Novo è risorto in musica. Beneath the Rose è un piccolo capolavoro di amore cortese, l'amore assoluto, dove la purezza della donna redime e avvicina al divino. A voi, Micah Hinson. It is said that you cannot be found. Under rocks with broken skull, I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. Alone. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You you will be crowned queen of all you have found. You have found alone. Skull, I will lay down, I will lay down, I can be found beneath the road, beneath the road. Whoa. Put a hot wire to my head because of all the things I didn't said. They made these feelings go away, model citizen in every way. Un invito alla rivolta da uno specialista in materia, Sir John Lydon, in arte Johnny Rotten. Questa è Rise dei Pill. Mobilitatevi e ricordate, anger is an energy. Be wrong, I could be right, could be wrong, I could be wrong, I could be right, I could be black, I could be white, I could be right, I could be wrong, I could be white, I could be black. Your time has come, your second skin. So high. Feeling Pare mai di vivere una vita che non vi appartiene? Vi sentite mai come Edmond, il protagonista dell'omonima pièce teatrale di David Mamet? Forse avete ingoiato la pillola blu di Matrix, o forse vi hanno messo qualcosa nel bicchiere. Ramones, somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink. Take a re-tonics, I favor a drink. I don't like anything. Sots and Soda dei Deus, a Somebody Put Something in My Drink dei Ramones. Volo pindarico numero 5.